È un ciclo di catechesi evidentemente pensato che vorrebbe, diciamo così, dare fondamento dottrinale, evidentemente dogmatico, a quelli che si chiamano appunto i novissimi, novissimi letteralmente è la parola latina che significa le cose ultime, cioè le realtà ultime e definitive. Che attendono l'uomo, cioè quelle che lo portano oltre la vita terrena e a contatto con ciò che è il termine della vita terrena, cioè la morte, e quello che viene dopo la vita terrena. Perché la vita terrena non è la dimensione esclusiva della dimensione della vita dell'essere umano. Ma è solo la prima, e tra l'altro la più breve fase di essa, però, pur essendo la prima, la più breve fase di essa, come ci insegna la Santa Fede cattolica e divina, è la più importante perché in questi anni che noi abbiamo da trascorrere qui sul pianeta Terra, legati a catena all'istante presente, che è esattamente quello che appunto istante dopo istante segna. Tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi facciamo, lasciando istante dopo istante un inchiostro indelebile sulle pagine della nostra esistenza. La nostra esistenza è da concepire, con un'immagine peraltro tolta dalla Sacra Scrittura, come un libro che può essere più o meno voluminoso, possono anche essere diversi volumi, composto da pagine bianche e che noi ogni giorno, volenti o nolenti, scriviamo, perché tutto quello che noi siamo e facciamo ogni istante del nostro tempo, che è appunto abitato dalla nostra presenza, è un istante pieno di qualcosa, di un atto indifferente, di un atto buono, di un atto cattivo, di un atto virtuoso, di un atto vizioso, di un atto di perfezione, di un atto imperfetto. Tutto quello che volete, ma istante dopo istante, momento dopo momento, la nostra vita si staglia in questo modo. Ecco, quindi è oltremodo importante confrontarci con quelle che sono le realtà ultime. Guardate che a titolo di introduzione, questo è uno dei problemi grossi attuali e che purtroppo, disgraziatissimamente, coinvolge anche la vita stessa della Chiesa, perché, come lamentano non pochi fedeli, ma che purtroppo a quanto pare non senza ragione, di questi argomenti oggi non si parla quasi più, o meglio, se se ne parla, si parla solo di un argomento. Sapete che i novissimi si dovrebbe imparare al catechismo, che sono quattro: la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso, no? Anche se poi, come vedremo, dentro questo ambito, per attrazione, si tratta anche di altre due realtà. Una è un altro dogma di fede e un altro non è un dogma di fede. Ed è uno degli argomenti controversi in questi nostri tempi. Il dogma di fede è il purgatorio, il non dogma di fede, da molti ormai già, a mio avviso, assai frettolosamente accantonato nella soffitta, nel dimenticatoio, è il limbo. Allora, dico, quando si parla di queste cose, se se ne parla, si parla solo del paradiso. Paradiso in cui vanno tutti, indistintamente, perché Dio è buono e misericordioso, non può certamente volere la dannazione di nessuno, e conseguentemente una persona, qualunque cosa abbia fatto nella sua vita, va in paradiso. La spia di questo, purtroppo, sono certi climi. Ho certe cose che si sentono dire, io questo lo so per esperienza, perché io prima di essere stato sacerdote sono stato un laico, non è che sono nato sacerdote, sono diventato sacerdote a 33 anni, quindi per 33 anni ho vissuto la vita cristiana dall'altra parte, diciamo così, no? Quindi ho partecipato a funerali, ho sentito omelie, tante, ecco. E le ho sentite anche con le mie orecchie certe cose, cioè io non vi nascondo, insomma, che ho assistito, cerco di non circostanziare per niente, insomma, perché magari Dio non voglia dovesse sentire qualcuno che capisce qualcosa, no? Ma io ho assistito, per esempio, ad esequie di persone che oggettivamente, pubblicamente, avevano avuto una vita veramente disastrata. Per usare un eufemismo, io ho sentito dire durante quelle esequie, oi, mi raccomando, non facciamo mortori, questa celebrazione è una festa, noi da oggi abbiamo un angelo in cielo che prega per noi o cose di questo genere. Io, sinceramente, amici miei, rimasi senza parole, nel senso dico, sicuramente sto sacerdote non conosce la persona. Però, cioè questo diciamo così, magari lo scusa dal dire delle corbellerie grosse quanto una casa, però appunto se non conosci la persona, io adesso ci sto da quest'altra parte, non dire queste cose, perché se la persona è quello che è, chi la conosce e magari non sa che tu la conosci, ma come esce da questa celebrazione? Magari non gli fanno manco una messa, perché scusa, se sta in paradiso, che gli facciamo a dire a fare le messe di suffragio? Quindi tratteremo evidentemente, perché è connesso con questo argomento, per esempio, quando parleremo del purgatorio, soprattutto dei suffragi. Suffragi che sono importantissimi. Ma è chiaro che se tutti vanno in paradiso, a che servono i suffragi? A niente, perché i suffragi servono, vedremo a suo tempo, a abbreviare o rendere meno dolorosa la sosta di purificazione. Ma capite che dietro questo discorso non è soltanto c'è una certa idea di Dio e c'è, come sempre, oggi ormai. Io ricordo le prime omelie che facevo da giovane prete, tutto contento che pensava di cambiare il mondo, però alcune cose che dicevo allora oggi le dovrei ridire ancora di più. Cioè che viviamo in un contesto dove o la fede non c'è o in quelli in cui è rimasta non è più la fede divina e cattolica, è diventata un'altra cosa. E ripeto, purtroppo, a quanto pare, non sembrano esenti da questa grave malattia, perché qui poi qui ci va di mezzo la salvezza delle anime, amici miei. Anche coloro che dovrebbero insegnarle, alcuni evidentemente, non tutti, ma di coloro che dovrebbero insegnarle queste cose. Ho letto oggi un tweet, questo è proprio di oggi, ma guarda un po' che Lo leggo casualmente stamattina, quando sono andato un attimo, no, non mi ricordo perché, a vedere il profilo di un amico, non italiano, di Twitter, che twitta evidentemente in inglese. Praticamente questo qui aveva messo nel tweet, non mi ricordo neanche il nome, meglio così non facciamo, però chiedo fiducia, insomma, su queste cose qui. Tra l'altro poi se uno già in base a quello che dico, a fare una piccola ricerca lo trovano. C'era un prete, presumibilmente anglofono, mi pare di aver capito che fosse irlandese. È un pezzo grosso, quindi un personaggio molto molto influente come dire, nella nomenclatura, diciamo così, della gerarchia presumibilmente irlandese, comunque di quel gruppo anglofono a cui apparteneva. Che cosa diceva questo qui? Diceva che le vocazioni sono pochissime adesso. Ma quelle pochissime che ci stanno sono vocazioni che fanno preoccupare. Che quasi quasi, se dobbiamo sfornare preti di questo genere, è meglio non averli. Sapete quali sono i grandi pericoli di queste vocazioni? Scritto nel tweet. Questi giovani preti vestono la talare. Vestono la talare. Amano la liturgia antica, amano la liturgia antica, questo orrore. Parlano dei novissimi, testuale, e nelle prediche parlano del peccato. Tutte quante cose di 40, 50, 60 anni fa. Che cos'è questo vecchiume? Che ci fai con dei preti così? Guardate, l'ho letto con gli occhi miei, e se uno si fa un giro lo andrà a ritrovare. Proprio oggi io dico, attenzione, se un prete, chiaramente vestito come preti vanno vestiti adesso in giro, la maggioranza, da idraulico, io lo chiamo un po' ironicamente, quindi il Signore mi perdonerà, che si scandalizza di queste cose, scandalizza che un prete parla dei novissimi, porta la talare e parla del peccato. Oh mamma mia! E di che cosa dovrebbe parlare un prete? O dovrebbe andare in giro vestito come un idraulico quando ancora il diritto canonico, perché questi il diritto canonico, almeno forse il diritto canonico. Cioè, il diritto canonico è uno per tutta quanta la Chiesa. Ah, certamente in Italia la Conferenza Episcopale ha autorizzato l'uso del clergymen, per carità. Attenzione però, ha autorizzato l'uso del clergymen. Io dico sempre che queste autorizzazioni, sapete, attraverso le autorizzazioni, e qui mi si deve perdonare perché però, cioè, questi sono dati di fatto, attraverso le autorizzazioni. Allora, faccio 3-4 esempi. L'autorizzazione serve semplicemente, l'autorizzazione in deroga serve semplicemente a distruggere una norma. Vogliamo un pochino di esempi? La veste talare, no? Un prete oggi va vestito come un idraulico semplicemente perché negli anni 60, quando uscirono fuori, io avevo il Vespino quando ero piccolino, la Lambretta era una generazione precedente rispetto alla mia, no? Quindi, uscivano le Lambrette e c'erano questi preti che avevano sta Lambretta e la veste talare, insomma, gli dava fastidio sulla Lambretta perché svolazzava, poi si infilava nei raggi, cominciavano a piantare grane. Dice, ma no, ma almeno per andare sulla Lambretta fateci metterci i pantaloni, e fateci togliere sta cosa. Ecco, poi che cosa succede? Concesso. Quindi, prima per andare sulla Lambretta, poi per fare i viaggi fuori parrocchia. Però, attenzione, in parrocchia e durante la liturgia, sempre la veste talare. È iniziato il movimento, dopodiché, non soltanto per la liturgia, non soltanto in parrocchia, ma solo per i sacramenti, e dopodiché consentito il clergyman, ma consentito il clergyman, il passaggio poi ulteriore, perché il clergyman è vestirti da laico con un segno clericale, d'accordo? Io quando facevo l'avvocato, mi si perdona, andavo in giro vestito in pantalone, in giacca e cravatta. I primi anni che vestivo da prete, io spesso portavo la giacca, avevo i pantaloni, la camicia, anziché la cravatta, il colletto, ma ero vestito uguale. Ok? Quindi, questo sarebbe autorizzato. Il non autorizzato è andare oltre, quindi proprio vestirti come un laico. Ma non è successo la stessa cosa con la comunione in mano, la famosa comunione in mano? Il mio amico Don Federico Bortoli, raccomando sempre la lettura della sua tesi dottorale in diritto canonico, la distribuzione della Santa Comunione in mano, l'ha proprio mostrato passo per passo. La comunione in mano nasce da abusi della fine degli anni 60, metà degli anni 60, fine degli anni 60, di alcuni gruppi del nord Europa che si erano messi in testa di voler fare gli apostoli, i novelli apostoli, dice: ah, ma Gesù nell'ultima cena ha celebrato col pane azimo e poi il coso e poi la comunione, ha detto prendete e mangiate, quindi dobbiamo prenderla in mano pure noi. Paolo VI all'inizio fu rigido, non se ne parla nemmeno, dopodiché, siccome questi andavano avanti lo stesso, ecco la solita cosa, no? Perché c'è l'abuso, cosa facciamo? Una stretta di vita oppure cediamo? Ha ceduto. Però la norma era circoscritta, cioè, attenzione, si può fare solo in piccoli gruppi, previa catechesi, consapevolezza dei frammenti che non devono essere dispersi, persone preparate, eccetera, eccetera. Cosa è successo? Cosa è successo adesso? Cioè, c'è una lamentela diffusa e continua, che specialmente post pandemia, un sacco di gente che ha difficoltà a prendere la comunione in mano, per ragioni sacrosante di coscienza, non c'è più posto dove la trova. Cioè, da un'eccezione circoscritta adesso è diventata la regola. Addirittura non solo la regola che non prevede eccezioni, quando al momento, all'attuale momento, la comunione umana è tuttora un indulto, revocabile in qualunque momento. Non c'è nessun diritto di prendere la comunione in mano, c'è un diritto a prenderla in bocca, non a prenderla in mano. Almeno come è attualmente la legge della Chiesa. Poi se la Santa Sede domani cambia il diritto canonico e cambia questa cosa, secondo esempio, vogliamo farne un altro? Terzo esempio, il bruciare i morti. Il bruciare i morti. Sappiamo benissimo, lo sanno tutti, che un tempo chi sceglieva la cremazione, tu scegli la cremazione e con questo ti privi delle esequie ecclesiastiche. Perché la cremazione di per sé è un atto pagano, di origine pagana, perché erano i pagani che bruciavano i morti. Basta andare a Pompei o ai cimiteri romani e vedere le urne funerarie. I pagani bruciavano i morti. I cimiteri se li sono inventati i cristiani, perché le catacombe, tuttora visitabili, non sono altro che i cimiteri clandestini che facevano i cristiani, in cui poi si riunivano per celebrare in segreto per sfuggire alle persecuzioni. E perché i cristiani seppellivano i morti? Perché la morte è l'ultimo sonno, perché il corpo è sacro, il corpo di un figlio di Dio. È stata abitazione dell'anima e sta semplicemente dormendosi il sonno più lungo in attesa della risurrezione. Allora che succede? Eccezione! Ah, però facciamo così, se uno si fa cremare non per sfregio del dogma della risurrezione, allora le esequie sono consentite. Poi però nel 2014 l'allora prefetto della Congregazione della Fede, quando ha cominciato a vedere che succedeva di tutto e di più, ha scritto un documento controfirmato dal Papa, dice: ah, no, però questa non è, cioè, nessuno pensi che questa è una cosa che la Chiesa raccomanda, eh? Cioè, questa è un'eccezione. E poi le ceneri non si possono portare a casa, non si possono fare le medagliette con la cenere del morto, ma ormai io sono parroco, chiedete in giro ai vostri parroci, siamo almeno al 50%, almeno dei morti che si fanno bruciare. Perdendo tutta quanto una serie di suffragi, tra l'altro legati alla sepoltura, di cui parleremo a suo tempo. Ho fatto soltanto questi tre esempi, ma potremmo continuare, ce ne sono tanti altri. D'accordo? Vogliamo parlare dei ministri straordinari della Santa Comunione, la stessa cosa, cioè che tu mi dici che in circostanze del tutto straordinarie può un laico di per sé distribuire la comunione o devi essere rigorosissimamente, San Francesco stesso diceva, la necessità non la legge, ma deve essere una circostanza del tutto straordinaria. Tutti quanti sappiamo che cosa è successo, no? Tutti. Cioè, ma tutto è così, ma anche a livello civile, come sono entrate le peggiori leggi? Col caso limite, no? Tu presenti il caso limite, dici, ma che in questo caso non concedi un'eccezione? Concessa l'eccezione al caso limite, l'eccezione diventa la regola. Quindi, purtroppo, sta cosa, procede, prosegue, e quindi stiamo veramente in un caos. Quindi dietro questo discorso che faremo, ripeto, c'è una certa idea di Dio e c'è il il termometro, lo stato della fede. Non è assolutamente morta quella mentalità che, piaccia o non piaccia, è la quintessenza del modernismo, e bisogna dirlo, in base alla quale, cioè, si pensa che anche le verità di fede. Non è che tu devi semplicemente, per questo si può e si deve fare, trovare forme e modi sempre nuovi e comprensibili alle generazioni attuali per riferirle. Questo si può, non solo si può, questo si deve fare. D'accordo? Ma attenzione, tu devi riferire la stessa cosa. Non puoi pensare che un qualche cosa possa cambiare in base al cambiamento dei tempi. E quindi poi cambi anche la dottrina. Io dico, cioè, c'è scritto nelle norme liturgiche della Chiesa, in quelle che riguardano le esequie, tanto per parlare di un argomento, che non si devono mai, per nessun motivo, fare panegirici del defunto. Ma manco se questo fosse conosciuto come un bravo cristiano, o forse anche un po' più che un bravo cristiano. Perché le canonizzazioni, fino a prova contraria, si fanno presso la Santa Sede, con una procedura ben precisa, che parte dalla diocesi, sulla base di documentazioni raccolte, quindi non è che tu al funerale questo è andato in paradiso, tu ti fai che tu ti stai sostituendo al giudizio di Dio, uno, e al giudizio della Chiesa, due. Al senso delle esequie è che un parroco con la comunità offre il primo sacrificio eucaristico in occasione della morte in suffragio del defunto, prega per lui, sperando che abbia raggiunto la salvezza. Punto. Ma io non sono mica tanto sicuro, io ne so se quello che di cui io sono sacerdote adesso, che ne so se quello che di cui sto celebrando il funerale è salvo? Che ne so io? E mica posso esserne sicuro che lo sia. Cioè, tutte queste cose, io penso che bisogna un attimo stare attenti, eh? Quindi qui ci va di mezzo, amici cari, attenzione però, la salvezza delle anime. Perché se non è vero che vanno tutti in paradiso, e non è vero che vanno tutti in paradiso, purtroppo non è che io so dire, ah che bello, non vanno tutti in paradiso, ma a me dispiace, così come detto fra me e voi, dispiace, certamente dobbiamo usare le virgolette quando attribuiamo questi termini all'Altissimo, dispiace pure all'Altissimo che non vadano tutti in paradiso, perché per quanto sta in lui, lui vorrebbe che ci andassero tutti, questo deve essere chiaro. San Paolo scrive chiaramente nella lettera a Timoteo, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e arrivino alla conoscenza della verità. Ma quello che Dio vuole non è detto che si compia. Dice, ah, ma allora Dio non è onnipotente, ma che discorsi fai? Questa volontà divina è, come dire, subordinata, perché così deve essere, alla volontà dell'uomo. La formula latina della consacrazione durante la Santa Messa dice che il sangue di Gesù è stato versato per molti, non per tutti. Quasi tutte le conferenze episcopali, molte conferenze episcopali nella traduzione hanno cambiato i termini. In Italia, non si sa perché ancora continuiamo con la terminologia antica, che è una terminologia, adesso non è detto che uno la interpreti in questo modo, no? Perché cioè, nelle intenzioni certamente Gesù ha versato il sangue, cioè nelle intenzioni divine non c'è nessuna preclusione a priori per nessuno alla salvezza. Non è che questo sì e questo no, però che questa sia l'intenzione divina non significa che questo accadrà. E tu puoi crogiolarti, cioè, abbiamo versato il sangue per tutti, quindi siamo tutti quanti coperti dal sangue di Cristo, quindi fa quello che te pare. E tanto buonanotte, versato per tutti in remissione dei peccati. Quindi, se l'ha versato per rimettere i peccati, qualunque peccato hai fatto, devi venire rimesso e vanno tutti in paradiso. Guardate che è facilissimo passare a questi ragionamenti completamente astrusi, perché il diavolo è terribile poi, cioè, quindi, ma attenzione, siccome così non è, una persona che entrasse in quest'ottica, ma pone a serio repentaglio la possibilità di salvezza dell'anima. Guardate, cioè, che questi non sono giochi. Qui non stiamo giochicchiando. Io non ho scelto di fare il sacerdote perché non c'avevo nient'altro da fare. Detto proprio in termini, così come presumo nessuno di quelli che fanno questa cosa. Ma per la gloria di Dio è la salvezza delle anime. La salvezza delle anime non è una cosa scontata. È un traguardo da raggiungere ed è un traguardo che per raggiungere, che per raggiungerlo ci vogliono una serie di condizioni che ci devono stare tutte quante. Cioè, la dannazione è una cosa grave, è una cosa brutta. Quando parleremo dell'inferno, già mi immagino i commenti su YouTube, c'è stato qualche catechesi in passato. Da parte degli stolti, l'inferno bisogna avere il coraggio di guardarlo in faccia, per quanto ne possiamo conoscere, dalla Sacra Scrittura, anzitutto, come vedremo, oltre che dal Magistero della Chiesa. Ed è meglio pensarci e bene a quello che rischiamo per evitare di andarci a finire. E nessuno di noi, io non sono affatto sicuro di non andare all'inferno, ahimè. Dio me ne scampi e liberi, ma io quando prego il rosario, scusate, ma la Madonna che fa fare delle preghiere inutili, ha chiesto alla Madonna Fatima di aggiungere dietro ogni decina, o Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Se gli chiediamo di preservarci dal fuoco dell'inferno, vuol dire che purtroppo questo pericolo è un pericolo reale, non è un pericolo ipotetico e nessuno sta al sicuro. Io non sto al sicuro, perché non è che il diavolo dorme, il diavolo viene a rompere scatole anche a me. Io sono tentabile, anzi, è di fede che fino all'ultimo istante noi siamo tentati, possiamo cadere. Per questo che l'Ave Maria prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte, momento del passaggio, un momento critico. Quindi, queste cose non devono far venire l'angoscia, perché non fanno venire l'angoscia, perché dall'altra parte c'è anche il fatto che se una persona, come dire, ama il Signore, vive nella fede, usa i sacramenti, prega e cerca di tendere verso la santità così come può, pur con tutto il bagaglio infinito di miserie che ci portiamo dietro, beh, insomma, a queste condizioni, sapendo che il Signore ci vuole salvi, senza diventare presuntuosi o superbi o arroganti o collocarci in paradiso a priori prima di andarci, beh, insomma, possiamo sperare di farcela, d'accordo? Ma sempre procedendo con estrema umiltà e con estrema cautela e circospezione. Ecco, allora, questi temi sono importanti. Io ritengo, insomma, che un prete, che ne dica quel confratello, insomma, che non so che cosa gli passa per la testa, facendo questo, non solo che fa il prete, ma fa quello che deve fare. Attenzione, questa è semplicemente una parte vincolante del nostro patrimonio di fede, vincolante ed importante. Bene, detto questo, il discorso che noi faremo è un discorso che si chiama tecnicamente, con una parola teologica un pochino tecnica, escatologico. Ora, io vorrei risparmiare alcune cose, ma nel secolo scorso questa branca della teologia, branca importantissima, appunto l'escatologia, cioè la dottrina delle cose ultime, eschaton in greco è l'equivalente di novissimo in latino. Eschaton significa cosa ultima, cosa della fine. D'accordo? È stato definito il focolaio dei disordini perché le stupidaggini, stupidaggini che sono state dette al riguardo fanno proprio il fumo. Ci sono stati fior di teologi, considerati tali, io tali mi dispiace tanto, ma non li considero, che hanno negato l'esistenza dell'inferno, hanno negato l'esistenza del diavolo come essere personale, hanno ingenerato illusioni nei fedeli, quindi chi non ha negato l'inferno, qualcuno ha detto che era vuoto, c'è ma è vuoto, cioè, e qualcun altro ha detto no, non è vuoto, ma è lecito sperare che sia vuoto. Se uno studia e soprattutto legge, io ho avuto questa grazia da parte dell'Altissimo, non è un mio merito, perché mi ci sono trovato, insomma, un po' dipendeva anche dal fatto che io ho sempre avuto questo criterio e lo conservo tuttora. Chi è stata ammessa ieri avrà sentito quel passo meraviglioso del libro della Sapienza, cercavo di farci un paio di omelie, perché se ne merita. Dice, quale uomo può conoscere i voleri di Dio? Chi può immaginare cosa vuole il Signore? Cioè, queste parole devono riempirci di un pochino di doverosa umiltà. L'umiltà è una bellissima virtù. Io vi chiedo di pregare perché ne possa arrivare un pochino. C'è un'umiltà, come dire, strutturale, doverosa, che noi dobbiamo avere innanzitutto davanti a Dio. Cioè, io dico, perché ho letto tanto? Ho letto tante vite dei santi, non perché sono chissà che cosa, ma perché quando mi accostai un pochino di più al Signore, poi intervenne la vocazione, quindi il tempo del seminario. Allora, un po' c'era il senso della responsabilità, dico, ma domani che divento prete. Cioè, è chiaro, un prete è l'ultima ruota del carro, poi io adesso sono abbastanza ultima ruota del carro, insomma, per la mia posizione ecclesiale, e sono felicissimo che sia così. Per quanto tu possa essere l'ultima ruota del carro, però sei sempre un prete. Quindi chi ti ascolta, insomma, tu c'hai l'autorevolezza di un prete e tu quando apri bocca devi sapere quello che dici, perché tu non puoi andare a dire una cosa che fa del male alle anime. Diciamo, questa era un pochino la motivazione professionale. Mi si passi questo termine che è proprio, insomma, non proprio consono, perché essere sacerdote non è una professione, però, come dire, è analogamente. È una missione, ma è analogamente accostabile per un'analogia molto molto ampia, no? Ma c'era anche un problema che io personalmente, chi sei, Signore mio? Cosa si può pensare di te? E chi ce lo insegna? Io ho sempre pensato che chi me lo insegna? I santi me lo insegnano. I santi padri, i santi dottori e i santi santi. Il santo è l'amico di Dio. Siccome io santo non ci sono, vado a interpellare gli amici di Dio. Scusate, a me questa cosa sembra talmente ovvia, talmente scontata, che dice, che bravo, ma che te che bravo? Questo è l'ovvio, no? Ma io non mi sognerei mai di andare contro l'autorità di una schiera di santi. È chiaro che anche il singolo santo o il singolo dottore, questo il Signore lo permette perché ci ricordiamo che Dio è sempre uno solo, l'infallibile e l'impeccabile è solo l'Altissimo. D'accordo? Questo non dimentichiamolo mai. Tra gli esseri umani, tra i membri della Chiesa, gli infallibili e impeccabili non ci sono. Ok? Non ci sono. Perché uno diventa impeccabile, è una cosa molto rara, solo se il Signore concede un dono straordinario che si chiama tecnicamente la confermazione in grazia. Alcuni santi l'hanno ottenuto. Ce l'aveva senza dubbio, ce l'avevano Gesù Cristo e la Madonna, su questo non c'è nessunissimo dubbio. Ma il resto è rarissimo. Quindi, infallibili, nessuno. E ha cominciato a dire che il Papa è infallibile. Il Papa è infallibile quando parla ex cathedra. E anche il magistero della Chiesa è infallibile quando si tratta di magistero solenne. Quindi che tende a definire un dogma o a proporre una verità di fede come definitiva. Altrimenti non è infallibile. Neanche il magistero. E lo dice, insomma, uno che era da sempre stato chiamato la Santa Inquisizione, quello che in seminario non poteva vedere nessuno perché stava il magistero, e il magistero, e il magistero, e il magistero. Quindi però. Quindi. Che il singolo possa prendere una cantonata, e anche teologi eccellenti hanno preso qualche cantonata, che poi bisogna comunque sempre circostanziarla, il momento storico, capire perché ha fatto quell'affermazione, tante cose. Però, quando una dottrina, questo è comune, si chiama così nei santi, cioè quando la stragrande maggioranza dei santi la pensano sempre allo stesso modo, tu non puoi distaccarti da questo, perché se lo fai, si dice in teologia, tu cadi in quella che si chiama la dottrina temeraria. Temeraria vuol dire, giovanotto, ma come ti permetti di metterti da solo, tu da solo, contro l'autorità di una schiera di santi e di dottori? Ma chi ti pensi di essere? È vero che anche quello non concorre ad essere magistero infallibile, ma c'ha un peso. Ora, la stragrande maggioranza dei santi non pensava affatto che la stragrande maggioranza del genere umano andasse in paradiso. Ve lo dico io, per quello che mi risulta. Poi se qualcuno mi vuole smentire o mi sa smentire o ha letto qualche cosa di differente, se è una cosa, una rondine non fa mai primavera, no? Me lo dica. I santi hanno sempre proposto un cammino austero, severo, sulla scia di quello che dice nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo, per raggiungere la salvezza e ancora di più per raggiungere la perfezione. Le discese, la mangiatoia bassa, le strade larghe, già nel Vangelo sono definite, come dire, vie maestre che portano alla perdizione. E su questo siamo uniformati tutti quanti i santi. Quindi l'arroganza, perché di questo si tratta, di alcuni personaggi vissuti nel secolo scorso, io li chiamo così, è giunta non solo a mettersi sotto i piedi, che io proprio ho un atteggiamento questo qui, che proprio lo considero assolutamente esecrabile. Perché, ripeto, io pregate per me, perché i temperamenti collerici, col vizio capitale della superbia, ahimè, e lo dico con tanto dolore, ecco, e con tanta vergogna, c'hanno proprio, è un incubo continuo. Quindi, però, dico, cioè, dinanzi a certe cose sarebbe un po' troppo, no? Ma come mi faccio ad andare a mettere da solo contro una schiera? Cioè, la tradizione con la T maiuscola è questa, capito? Noi non possiamo, cioè, noi. Non è che arrivo io e ha rivolto tutto, rifaccio le cose da gamba, ma che sei matto? Ma che fai? Cioè, questa è una follia abbastanza diffusa che ha circolato e che continua a circolare, purtroppo. Ecco, quindi stiamo sempre, per questo che formazione, formazione, formazione, formazione, formazione, letture, letture, letture, letture, perché poi i fedeli che ascolteranno queste cose, perché i fedeli, grazie a Dio, e questo devono imparare assolutamente a farlo, hanno una coscienza. Una coscienza, come diceva il cardinal Newman, è animata, se sono fedeli, che che ci provano a essere fedeli anche loro, nel senso che pregano, stanno vicino ai sacramenti, si informano, ascoltano, si documentano per quanto possono. Dopo gli viene il sensus fidelium, potremmo definirlo, qualcuno definisce il naso, nel senso che quando sentono qualcosa che non va, sentono subito la puzza di bruciato e entrano subito in allarme. Quando si entra in questo allarme, attenzione, questo è un allarme da seguire. Dice, ho sentito sta cosa, sto ministro di Dio va dicendo questa cosa, ma a me mi sembra che questa è una stupidaggine, mi sembra il contrario di quello che dovrebbe essere detto. Ah, no, hanno però, poi c'è qualche anima che non ha imparato, come dire, a discernere che quando succedono queste cose è la coscienza che ti sta ammonendo, e nella coscienza parla la voce di Dio, che dice, ah no, però l'ha detto, quello è un prete, quindi se lo dice lui sarà così. O quello è un vescovo, se lo dice lui sarà così. Se lo dice lui sarà così, dipende. Dipende. Un vescovo, questo, cioè, chiunque può andare a controllare, un vescovo, a differenza del sommo pontefice, non ha da se stesso, e nemmeno la conferenza episcopale ce l'ha, il potere di produrre nuovo magistero. Non ce l'ha. Un vescovo non può, in quanto vescovo, proporre, come dire, o definire una dottrina distinta da quello che già fa parte del patrimonio dogmatico della Chiesa. Non lo può fare, non c'è il potere di farlo. Perché questo può farlo soltanto il sommo pontefice da solo, solo lui, e il vescovo lo può fare, ma solo con tutti gli altri vescovi, quindi riuniti nel collegio episcopale, non nelle conferenze episcopali, tutti i vescovi del mondo insieme e sempre in unione con il sommo pontefice. Qui poi si distinguono, adesso però non voglio parlare di queste cose, magistero solenne, ordinario, straordinario. Vabbè, comunque. Chiaro? Quindi, questo per dire che il dovere di un vescovo è di predicare la sana dottrina cattolica. Né più né meno che il dovere, no, non né più né meno, di più, perché lui c'ha la pienezza dell'ordine sacro. E c'ha anche una potestà canonica non indifferente ed è anche incorporato come corpo, ma a successione apostolica. Ma non può inventarsi nulla. Deve proporre, insegnare, spiegare, anche in termini comprensibili all'uomo contemporaneo, il depositum fidei. Che non si tocca. Che ora, terminiamo questo discorso che è un pochino introduttorio, come sempre la prima dei nuovi cicli di catechesi, no? Ora, che cos'è la vita cristiana? Che cosa siamo stati battezzati a fare? Siamo stati battezzati per un motivo molto semplice. Perché tolto il peccato originale e infusa la grazia santificante con tutte quante le virtù teologali e cardinali, chi vuole approfondire questo tema può tranquillamente dare un'occhiata al ciclo di catechesi dell'anno scorso, vizi e virtù. E a che cosa servono queste cose? A diventare santi. Ad immagine del santo che vi ha chiamato, diventate anche voi santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: voi sarete santi, perché io, il Signore, sono santo. E che cosa è essere santi? Santo, in italiano in latino è sanctus, le etimologie latine sono state. Ne sono state proposte almeno due o tre, ma per cogliere la quintessenza della santità bisogna andare a vedere l'ebraico ed il greco. In ebraico santo si dice kadosh, e kadosh in greco, scusate, in ebraico significa separato. Separato vuol dire separato, cioè c'è un insieme e a un certo punto un qualche cosa che stac si distacca dall'insieme. Lo vogliamo esprimere in termini evangelici? Voi non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo. Quindi un cristiano è altro rispetto al mondo. In greco, a questa, diciamo così, già importante puntualizzazione dell'etimo ebraico, si aggiunge un'ulteriore sfumatura perché santo in greco è agios, alfa privativa, e geos che significa terra, no? Il geologo, diciamo anche in italiano, è quello che studia la terra, la geografia è appunto la scrittura della terra, geografos. Quindi, ossia le piantine, la conformazione dei territori, eccetera, no? Quindi, agios, quindi vuol dire alfa privativo, lo diciamo anche noi, no? Quando uno è afono, vuol dire che non parla, afone, senza parola, ok? Agios significa letteralmente senza terra. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. La terra è ciò che appartiene a questa vita. Si chiama la vita terrena. Senza terra vuol dire che il santo, il chiamato alla santità, è un uomo celeste. Già da adesso, una donna celeste e pura o puro, quindi non frammischiato a queste cose. Già comincio subito a sentire, no? Ah no, qui facciamo una discriminazione, no, noi siamo come tutti gli altri, che cosa, tutti questi discorsi. Ah, la chiesa dei puri, ah, questa è la chiesa dei puri, hanno cominciato ai tempi di Sant'Agostino, i donatisti, poi nel Medioevo c'erano i catari e tutti quanti eretici, e gli albigesi a destra e a sinistra. Ah, la chiesa non è la chiesa dei puri, noi siamo tutti tanti peccatori. Calma, calma, buoni, tranquilli, calma, calma. Anche questa frase, siamo tutti peccatori, ci sono alcuni ambienti nella Chiesa, non voglio neanche qualificare il termine ambiente, se no si capisce troppo bene quali sono, ma come diceva Gesù, chi vuole capire, capisce alla grande. Siamo peccatori, siamo tutti peccatori, ma non c'è certo che, cioè, lo diciamo in continuazione. Cioè, la Santa Messa comincia con l'atto penitenziale. Prima di fare la comunione, diciamo, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Tutte le sere dovremmo dire, spero che lo facciate tutti, l'atto di dolore prima di andare a dormire. Perché cosciente o non cosciente, abbiamo continuato un sacco di guai. Ma c'è modo e modo di essere peccatori. Allora, il santo, quindi quello che vive la propria vocazione, non è peccatore nel senso di avere in sé, con sé, la malizia del peccato. Cioè non è uno che pecca ad occhi aperti. So che una cosa è peccato, chi se ne importa la faccio lo stesso. Questo non è il santo. Chi fa questo sta tradendo la propria vocazione battesimale. Quindi, che significa? Se non faccio questo qui, quindi se una cosa so che è sbagliata, non la faccio, vuol dire che sono impeccabile? Non commetto peccati? No, li commetti. Perché per debolezza, per ignoranza, molte cose che al Signore non piacciono, tu non ne sei consapevole. O altre cose che al Signore piacciono e tu non le fai, non ne sei consapevole. Quindi c'è una condizione strutturale di miseria, anche i peccati di difetto, quelli che dipendono dai vizi che ci portiamo dietro, no? Appunto, un atto di superbia, un parlare gratuitamente di te, un dire una parola inutile, fare uno scatto di impazienza, un atto di ra. Ah, queste cose qui dicono tutti i grandi santi. Noi dobbiamo combattere su tutti i fronti, ma non illudiamoci di riuscire a vincerle tutte le battaglie. Allora, in questo senso è chiaro che tutti rimaniamo peccatori, fino a quando siamo in questa valle di lacrime. Ma in questo senso però, e questo senso non è incompatibile con la chiamata alla santità. Però se tu con peccatore intendi una persona che sta ancora volontariamente invischiata in cose che sa bene che offendono Dio e nonostante che lo sappia le fa lo stesso, questo è un altro discorso. Ora, il discorso è che chi è il solo santo? Tu solo il santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Chi è il tre volte santo? Quindi il santo è Dio. È Dio. E quindi chi è che può stare dinanzi a Dio? Solo i santi. I santi possono stare dinanzi a Dio. Ecco perché, cioè, se tu a un funerale vai a dire: ah, questo è un angelo che prega per noi, stai dicendo che quello è santo. Non solo santo, è santo che si è anche purificato già tutte le sue colpe. E con quale autorità tu dici una cosa di questo genere? Io ancora lo devo capire, insomma. A meno che non c'è la scienza infusa o se c'è doni straordinari che il nostro Signore ti ha rivelato che quello è un'anima beata, alzo le mani. Ora, tutti i beati in paradiso saranno tutti santi. Perché la Chiesa è, quando si dice che la Chiesa è santa, la Chiesa è santa, attenzione, e la Chiesa, non gli uomini e i membri della Chiesa, La Chiesa è santa e la Chiesa non pecca, eh? La Chiesa non pecca, i singoli sì, ma la Chiesa no. Perché la Chiesa è la sposa di Cristo. Il fatto che la Chiesa peregrinante o militante, come si chiamava un tempo, meglio secondo me, sia soggetta a miserie in continuazioni, però, come dice San Giovanni, pur non essendo possibile essere santi come lo sono i beati, ma San Giovanni dice, chiunque è nato da Dio non pecca, chi pecca non l'ha mai visto né conosciuto. Cosa sta dicendo? Ah, quindi non è vero che siamo peccatori? No, non è vero che siamo peccatori nel senso che ho prima specificato. Perché fino a quando tu commetterai un peccato volontario e con piena avvertenza, ci sono ancora dei problemi. Ora, i membri della Chiesa sono santi tutti quanti. Allora, il battesimo ci ha dato il là, il punto di partenza verso la santità. Ci ha messo in condizione. E poi però ci sarà un cammino da percorrere. La Chiesa, dicono i documenti della Chiesa, anche recenti, anche la Lumen Gentium, in questa terra è rivestita già di santità vera, anche se imperfetta. L'imperfezione, che per noi è strutturale fino a quando siamo qui, non è affatto un ostacolo alla santità. È la volontarietà del peccato che lo è. Spero di essere stato chiaro, eh? Ora, la morte segna il passaggio definitivo da questa condizione ad un'altra condizione. Noi qui siamo nella prova, noi qui siamo, come diceva San Tommaso, viatori, siamo in via. Siamo in una condizione di interdizione perché subiamo le conseguenze del peccato originale e tutto ciò che questo comporta, tutte le limitazioni che in parte sono intrinseche a questo stato e in parte nostro Signore, con un atto positivo di volontà, ha voluto inserire per il nostro bene. Allora, al momento della morte si aprono tre strade. In paradiso ci vanno i santi. Tanto per chiarire, in paradiso per direttissima, la Chiesa, ha la coscienza che ci vanno due categorie di persone, i martiri e i bambini battezzati prima dell'uso della ragione. Basta. Gli altri generalmente passano per una fase di purificazione. Il purgatorio, attenzione, l'anima del purgatorio si chiama anime sante, avremo modo di approfondirlo. Quindi, se uno va in purgatorio, il bersaglio l'ha centrato sostanzialmente, certo, non in maniera perfetta. E quindi, lo vedremo a suo tempo, avrà un tempo di purgazione, di purificazione, di espiazione, di riparazione, prima di accedere alla pienezza della santità. Questo perché davanti a Dio, ripeto, ci vanno solo i santi. E se tu santo ci sei diventato prima della morte, cioè diventi per forza dopo la morte, col purgatorio. Oh, l'inferno chiaramente è il fallimento totale dell'obiettivo. Come tante volte ci diceva il mio altro amico Don Fabio Rosini, quando veniva a farci un po' di prediche in seminario, quando era in seminario a Roma, ci diceva che il peccato, che in ebraico è attat, tra le etimologie possibili c'è quello di fallire il bersaglio. Chi pecca ha fallito il bersaglio. L'inferno è il fallimento totale dell'obiettivo. La nostra vita ha un obiettivo. Qui non voglio adesso cicco di catechesi dal non senso alla vita di cielo. Qual è il senso della tua vita? Il fine della tua vita. Noi siamo stati creati per conoscere, amare e servire Dio in questa vita e per goderlo nell'altro. Questo è quello che ci dice la fede. L'inferno è il fallimento di questo fine. Eh? Chi va all'inferno? Chi non ha conosciuto, chi non ha amato e chi non ha servito Dio in questa vita. E attenzione perché, fallito l'obiettivo, noi abbiamo solo una vita per raggiungere l'obiettivo. E non ci sono, terminata questa chance, possibilità di recupero. O il bersaglio lo hai colpito o il bersaglio lo hai fallito. Se la mira era stata un po' imprecisa, pace. Ma se hai fallito il bersaglio, addio. Ecco, questo per dire che tutto quello che andremo a fare credo che sia molto importante. E che un prete che fa queste cose, non soltanto da questo povero Don Leonardo, ma chiunque lo fa, ce la fa molto meglio di come lo faccio io, non è che fa cose che si fanno 40-50 anni fa. Fa il suo dovere e certamente concorre a un grandissimo bene per tutte le anime. Detto questo, appuntamento alla prossima settimana per la seconda puntata. Dio vi benedica. E la Santa e Beatissima Vergine sempre vi protegga.